Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. Torniamo a una programmazione, ci auguriamo, il più possibile regolare, e restano però alcuni dei temi della settimana scorsa. Mi riferisco all'insediamento e al giuramento di Donald Trump. Già oggi molti, già oggi e nel fine settimana molti stanno analizzando le decisioni prese da Trump, ed è tornato oggi il presidente, il neo presidente statunitense, ha rilanciato il suo slogan, quello che più ha colpito, lo dicevamo anche in diretta venerdì, ossia Buy American e Hire American, quindi compra americano e assumi gli americani. Ha detto di nuovo ai leader, nel suo primo incontro alla Casa Bianca con i leader del business, ha detto: dovete produrre negli Stati Uniti e assumere americano. Nel suo primo incontro con la comunità, appunto, economica più che finanziaria, Trump ha promesso una riduzione delle tasse per la middle class, quindi per la classe media, e per le società dal 15 al 25% contro l'attuale 35%. Tutto quello che dovete fare è stare qui, non andare via, non licenziare la vostra gente negli Stati Uniti. Ha detto che non pubblicherà la sua dichiarazione fiscale, la sua dichiarazione sulle tasse, alla gente non interessa. E invece il primo atto di Trump è stato firmare un decreto sull'Obamacare, aprendo di fatto la strada alla sua abolizione. Forse oggi arriverà l'indicazione di rinegoziare il NAFTA, il trattato di libero scambio con il Messico e con il Canada, e l'ipotesi di uscire proprio dall'accordo di partnership transpacifica TPP, che è l'equivalente pacifico del TTIP che riguardava il fronte atlantico, l'Europa, ma mi sembra che sia tutto assolutamente bloccato anche lì. Ne parleremo in apertura perché, come ogni anno, il centro di documentazione Luigi Einaudi propone il suo rapporto sull'economia globale e su quella italiana. Siamo al 21esimo rapporto, il titolo è proprio d'attualità: Globalizzazione addio, punto di domanda. Di questo parleremo in apertura. Parleremo invece anche della vicenda Generali, che sta interessando. Allora, Generali sono il secondo gruppo assicurativo a livello europeo, il terzo gruppo assicurativo a livello europeo, e chiaramente il primo gruppo assicurativo a livello italiano. Dentro le Generali, come abbiamo spiegato molte volte, non c'è solo un gruppo assicurativo, ma c'è lo snodo, come dicono, si diceva una volta, delle partecipazioni del capitalismo italiano, nel senso che i principali azionisti sono Mediobanca con il 13,5%, poi Francesco Gaetano Caltagirone con il 3,5%, Leonardo Del Vecchio con il 3,2%. Però da questo punto di vista, cosa succede? Che Mediobanca, che è il primo azionista delle Generali, dentro Mediobanca c'è UniCredit con l'8,5%, Bolloré con l'8%, Mediolanum col 3,3%. È francese sia chi guida le Generali, quindi Philippe Nonet, che chi guida UniCredit, quindi primo azionista di Mediobanca, che è il primo azionista delle Generali, Jean-Pierre Moustier. Che cosa è successo oggi? C'era già stata un'indiscrezione domenica, se ho ben visto, del quotidiano La Stampa, proprio su un possibile intervento del gruppo Intesa San Paolo nella partita che potrebbe portare a un rimescolamento del titolo del Leone triestino. E oggi il mercato scommette su questo, tant'è che il titolo guadagna 3,80%. Intesa San Paolo, per voce del suo presidente, ha risposto no comment, che non è né una conferma ma neanche una smentita. È arrivata invece una comunicazione di Allianz che dice sostanzialmente: noi non siamo nella partita Generali. Perché parlo di Allianz? Perché da questo punto di vista l'ipotesi ventilata sul quotidiano La Stampa era proprio di un'operazione Intesa San Paolo assieme ad Allianz. Sappiamo che l'altra ipotesi totalmente ipotetica invece che possono essere interessate le Generali, i francesi di AXA, che sono i secondi. Allianz è il numero uno in Europa, il secondo gruppo si chiama AXA, è francese, il terzo gruppo si chiama Generali, da italiano appunto, e sono i tre primi gruppi assicurativi a livello europeo. Ne parleremo a mercati chiusi. Il titolo, dicevo, guadagna il 3,70%, il 3,80%, che non è poco per un titolo come le Generali. Mediobanca, eccoci qua, più 1,70%, poi invece non c'entra nulla, ma Fiat Chrysler guadagna l'1,60%, Unipol l'1,40%, Ferrari l'1,1% come Jux Net-a-Porter. Chi perde è sempre legato alla vicenda Generali, Intesa San Paolo meno 3,5%, poi c'è Unicredit che perde il 3,38%, scusatemi, Banco BPM il 2,70%, Italgas il 2,60%, Leonardo pure, Banca Mediolanum cede il 2,5%, Biper Banca il 2,20%, Fineco meno 2%. Segnalo che anche Banca Generali va molto bene, più 5,65%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, ci occuperemo di questi temi, ma anche di quanto sta capitando, chiaramente quello che sta succedendo nel centro Italia, tra terremoti, neve record, disastro, Raccopiano, lo stiamo seguendo da giovedì e anche da mercoledì. Però c'è un fronte che non abbiamo voluto tenere all'inizio perché sembrava quasi andare solo sulla parte economica, ma che riguarda il mondo degli allevatori e agricoltori di quelle regioni, quindi stiamo parlando in primo luogo di Abruzzo, parte delle Marche, parte dell'Umbria, e adesso il maltempo si sta spingendo in maniera pesantissima nel sud Italia. Ne parleremo nella seconda ora del programma per gli aggiornamenti su quello che stanno facendo i soccorritori, invece ve li danno i nostri GR24 e eventualmente le breaking news, per cercare di capire, visto che c'è anche in questo senso una notizia oggi che arriva dall'Europa, perché l'integrazione dei fondi a sostegno delle aziende agricole nelle regioni colpite dal terremoto va a aumentare da parte di Bruxelles, ossia anticipo delle totalità dei pagamenti diretti, alcuni finanziamenti dello sviluppo rurale e una procedura veloce per la riassegnazione dei fondi per rafforzare le misure per riuscire a ripristinare il potenziale agricolo e silvicolo danneggiato dal sisma. Ne parleremo, ripeto, nella seconda ora del programma. 349-238-6666 resta il numero per SMS e WhatsApp. Poi c'è come sempre la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, sì, parleremo anche delle dichiarazioni del presidente dell'INPS Tito Boeri, molto molto critiche nei confronti della manovra finanziaria del governo. Le ha rese qui al Sole 24 Ore oggi nel corso dell'evento Tutto Pensioni organizzato dal Sole 24 Ore, molto critiche. Ascolteremo anche l'audio e l'intervista che abbiamo realizzato sulla manovra e sugli effetti di questa manovra economico-finanziaria che va a avvantaggiare la parte più ricca del paese e svantaggiare la parte più debole del paese. Per quello che riguarda appunto Boeri, adesso lo affronteremo, ma chiedo un attimo di pazienza perché volevo dare ancora due titoli di mercato, visto che stavamo commentando la borsa. Oltre ai bancari, segnalo che oggi sì, c'è una debolezza, me lo chiede un ascoltatore, su Eni ed Enel, meno 1,70 Enel, meno 1,70 anche Eni, perché il petrolio continua a stare intorno ai $52 al barile. Per quello che riguarda Eni, anche Saipem perde l'1,50%. Allora sì, per quello che riguarda invece le dichiarazioni di Boeri, ha detto qui al Sole 24 Ore nel corso dell'edizione 2017 di Tutto Pensioni: questa è una manovra che fa aumentare il debito implicito e ogni manovra che lo fa scarica oneri sulle generazioni future, è una manovra che lo fa in modo non irrilevante e ancora in Italia c'è un problema serio di povertà. Se guardiamo i dati sui consumi, è raddoppiata negli anni della crisi nella fascia al di sotto dei 65 anni e su questo continuiamo a non intervenire in modo sistematico. Ha risposto a Boeri il consigliere economico dell'unità di coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio, sempre nel suo intervento a Tutto Pensioni, si chiama Patriarca, Stefano Patriarca, ha detto: nella manovra ci sono forti elementi di equità sociale. Allora, parlavamo delle generali invece e del ruolo che potrebbe avere Intesa San Paolo nel rimescolare anche l'azionariato. La Consob ha detto che sta monitorando l'andamento del titolo. Su questo però si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. Non è una grande giornata per i mercati finanziari, c'è molta incertezza, Wall Street sta cadendo, ma c'è soprattutto molta incertezza su quello che sarà lo shopping italiano delle grandi corporations europee dopo l'operazione su Luxottica della francese Essilor e le altre operazioni che hanno visto coinvolti i gruppi italiani. Questa volta si parla di finanza, non di banche, sia mai. Nel settore bancario non si vedono fusioni transfrontaliere, ma in quello assicurativo sì. I rumors di una possibile fusione fra Allianz e Assicurazioni Generali, ma più che di fusione, si tratterebbe di un takeover stavolta, potrebbe portare, se concretizzato, il nostro colosso e unico grande gruppo assicurativo sistemico italiano nell'orbita del più grande gruppo assicurativo tedesco. Una fusione tedesca-italiana non si è vista molto nel settore, soprattutto quello finanziario, ma in realtà è tutto un settore in grande fermento in questo momento, soprattutto per effetto della congiuntura internazionale e dei tassi di interesse troppo bassi per essere sostenuti sia dalle banche che soprattutto dal settore assicurativo, dove si pagano anche le pensioni in gran parte del mondo. Comunque sia, un fatto è certo: l'Italia è tornata ad essere appetibile a tutti i grandi gruppi mondiali, vuoi perché abbiamo prezzi da sconto, vuoi per l'incertezza che continua a circondare soprattutto la stabilità politica di un paese che pensa sempre più alle elezioni che a rilanciare se stesso. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, alcuni ascoltatori mi dicono l'Enel stacca dividendo. Pensavo di averlo detto quando citavamo il petrolio su Eni e Saipem, invece il caro dell'Enel. Certo che l'Enel, se non ho detto chi dovenia, l'Enel oggi paga l'acconto del dividendo, per cui il calo è riferito anche a questo, ex stacco parziale della cedola. Però ne parliamo ai mercati finanziari. Invece vorrei restare sul tema che ricordavo, cioè l'insediamento di Trump. E Trump che... c'era chi diceva, vedrete che quando Trump salirà alla Casa Bianca ammorbidirà i suoi toni, i temi. No, non l'ha fatto, anzi va dritto per la sua strada. Prima ancora di giurare aveva convocato i grandi gruppi automobilistici americani, facendo capire che e plaudendo all'attività di Ford e Fiat Chrysler, criticando invece General Motors, criticando Toyota per gli investimenti negli impianti messicani. Nel discorso di giuramento ha ribadito tutti i punti: compra americano, assumi americani, vogliamo riportare la ricchezza negli Stati Uniti, vogliamo non più spendere per difendere altri paesi ma per difendere le nostre frontiere. Faccio notare che appunto l'idea che gli Stati Uniti abbiano regalato ricchezza all'estero è un pochino peregrina, nel senso che quando tu hai il quasi il 40% del tuo debito in mano cinese, devi dire grazie ai cinesi che te l'hanno finanziato. Sarebbe come se noi, mutatis mutandis, la proporzione del debito, dicessimo vogliamo riportare la ricchezza in Italia, ma diciamo, abbiamo un debito per metà finanziato dagli stranieri. Però è innegabile che un percorso in atto, se lo saldiamo quanto ha dichiarato sempre la settimana scorsa Theresa May su un'uscita dalla Gran Bretagna, su una Brexit senza grandi compromessi, ci sta tutto. Il titolo del ventunesimo rapporto sull'economia globale e l'Italia del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, globalizzazione addio, punto di domanda, come sempre è curato dall'economista Mario De Aglio, curato perché ci sono tantissimi contributi, che ringrazio per averci aggiunto in collegamento. Buonasera professore. Buonasera a voi. Allora, globalizzazione addio, parto subito visto che voi parlate della dinamica globale ma anche e soprattutto dell'Italia. Se ho ben capito, voi prendete atto che è in corso una rivisitazione complessiva di tutta la globalizzazione, anche perché quando la pratica e la predica questa revisione il presidente, il 45esimo presidente degli Stati Uniti, chiaro che è in atto. Però fate notare che l'Italia, contrariamente a quanto spesso è ovvio che la globalizzazione ha creato anche danni e feriti e ha reso concorrenziali alcuni settori, ha abbassato i margini per molte imprese. Ma l'Italia negli ultimi anni, cioè dal 2008 in poi, si è avvantaggiata moltissimo, essendo il secondo paese manifatturiero d'Europa, di una globalizzazione che poi per noi si è tradotta in export. De Aglio. Sicuramente sì, infatti quando si parla male della globalizzazione dall'Italia bisogna dimenticare che se non ci fosse stato il polmone delle esportazioni saremmo ancora probabilmente con tassi di crescita zero o forse leggermente negativi. Quindi per carità, la globalizzazione è la nostra strada, ma ci troviamo di fronte a un mondo che forse sta rinnegando la globalizzazione. Se la principale economia si chiude, dovremmo fare delle scelte. Ecco, voi elencate, adesso non posso raccontare tutto il rapporto che è fatto di 230 pagine, ma voi elencate intanto gli elementi di criticità, però anche degli elementi di cauto ottimismo. Partiamo però dai primi e partiamo a livello globale per poi scendere e stringere sull'Europa e sull'Italia. De Aglio. Ma, a livello globale gli elementi di criticità in questi giorni si riassumono nella posizione del presidente americano. E cioè, come ha detto nel discorso, comprate americano e assumete americani. Ora, questa è una visione legittima, per carità, si può fare un poco di protezionismo con una certa lentezza per consolidare l'economia del proprio paese, chi non l'ha fatto, ma quello che preoccupa del presidente Trump è il fatto che lui vuole fare tutto subito. E nei primi 100 giorni, e già si parla nelle agenzie di oggi del progetto di nuove tariffe doganali molto più alte delle attuali, e non a caso il dollaro scende. Quindi abbiamo così una situazione estremamente tempestosa davanti, che non possiamo che guardare con un giudizio negativo per quanto riguarda la globalizzazione. Ci possono essere dei contrattesi, cioè noi possiamo aumentare la collaborazione con altri paesi, che è quello che viene proposto da più parti, la Cina, la Russia, eccetera. Naturalmente noi come Europa, però l'Italia in particolare, che ha avuto molti successi, soprattutto in Cina e nell'Oriente, negli ultimi 2-3 anni. Quindi, se ho ben capito, il dubbio, la criticità nel piano Trump è anche relativo ai tempi. Cioè, se tu cerchi di smontare, leggevo le dichiarazioni di oggi, NAFTA, quindi l'accordo commerciale di libero scambio con Messico e Canada, e smonti il TPP con l'Asia, in un tempo così breve, lei perché vede dei rischi in questo? Cioè, dice, non dà la possibilità al sistema del commercio mondiale di assorbire? Infatti, noi non facciamo in tempo, diciamo pure, a riorganizzare un sistema esterno agli Stati Uniti che sia in grado di funzionare. Quindi dobbiamo passare attraverso una fase di confusione in cui abbiamo imprese che in questi anni hanno acquistato solide fette del mercato americano che improvvisamente si trovano di fronte a una tariffa doganale, supponiamo, del 30-40%, come ha detto il Presidente. Quindi questo rimane difficile da superare e con ripercussioni negative possono essere abbastanza pesanti. Ecco, professor De Aglio, però immaginiamo che Trump, perché non dà nessun'altra indicazione, vada avanti per questa strada. Allora, noi sappiamo che molte imprese, il nostro export in particolare, il settore dell'agroindustria, agroalimentare, ma anche moda, abbigliamento, non solo, negli Stati Uniti hanno un mercato d'eccellenza. Perché non è solo la meccanica di precisione che invece è più orientata ancora verso l'Europa in molti casi, o come fornitura o come cliente diretto, ma il Made in Italy classico, le 4A, abbigliamento, arredo, alimentare e automotive, però automotive lì si salva perché ha gli impianti negli Stati Uniti, insomma hanno nel mercato statunitense il mercato principale di sbocco, quello che è più cresciuto in questi anni perché ha recuperato prima dalla crisi. Allora, per non saperne leggere né scrivere, ma se si alzano delle barriere lì, ha ancora un senso farci del male nei confronti della Russia, che proprio questi tre mercati, abbigliamento, alimentare e arredo, avevano come altro paese d'eccellenza? Assolutamente non ha nessun senso. Devo dire che in questo il presidente americano sembra abbastanza apertamente schierato per revocare le sanzioni alla Russia. e quindi se l'Europa lo facesse per prima, dando segno di esistere, perché notiamo la sua totale mancanza di dichiarazioni in questo periodo tormentoso, no? Proprio sono rimasti del tutto senza parole di fronte alle molte parole di Trump. Se l'Europa prendesse l'iniziativa di togliere questi dazi in attesa di quello che succederà dopo, diciamo pure diplomaticamente di sospenderli, allora noi avremmo una compensazione non sufficiente, ma comunque di un certo significato alla perdita presumibile di buona parte del mercato americano. Oddio, buona parte non lo so, però insomma vedo che adesso è uscita un'agenzia che dice che Trump, dopo l'incontro con i leader del settore business, ha chiesto agli imprenditori un piano entro 30 giorni per una, che serve alla Casa Bianca per elaborare un insieme di azioni per stimolare il settore. Tra gli industriali presenti c'era anche Mark Fields della Ford, che si è detto fiducioso sul fatto che Trump lavorerà per creare posti di lavoro. Io posso pensare a una situazione, a pensare bene, insomma, una situazione di questo tipo, che Trump dica non applicherò le tariffe punitive a quelle imprese che comunque aumenteranno l'occupazione in America. Quindi vorrebbe dire un invito a tutti, e quindi per esempio anche alle imprese del lusso italiano, ad assumere degli americani, a trasferire chiaramente le produzioni marginali eccetera in America. Poi vediamo questo che cosa vuol dire, se è un trasferimento relativamente piccolo forse si può anche fare, si salva il mercato, se invece fosse un trasferimento che comporta chiusure in Italia eccetera, credo che il gioco non valga la candela. Allora, dopo il meteo invece vorrei arrivare all'Europa e appunto alla parte italiana. Devo correggere un'ascoltatrice che scrive da Torino. No, guardi che io ho sempre riconosciuto in questi anni, poi ho smesso di farlo, al professor De Aglio, che in tempi non sospetti, era il 2007, un'intervista durante la prima crisi, Bear Stearns, riconobbe sui mutui subprime, riconobbe che stava arrivando giù la slavina, e gliel'ho sempre riconosciuto, così come riconosco che quando qualcuno individua una previsione correttamente è inutile, e fu l'unico a dire attenzione, questa è una slavina che sta diventando una valanga vera e propria, che mi rendo conto in questo momento sia anche un esempio di cronaca. E capitò esattamente così: dal 2007 prima Bear Stearns, 2008 arriva giù tutto con Lehman Brothers. 349-238-6666 per sms e whatsapp, ruolo dell'Europa, Italia e gli elementi propositivi che individuate nel rapporto dopo il metodo e la pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. :17:36. Dunque, professor De Aglio, l'Europa, sempre sul fronte degli elementi più critici del vostro rapporto, e l'Italia. Dunque, l'Europa si trova in una situazione economicamente non troppo deficitaria, con il maggior paese che è la Germania, che arriva intorno all'1,9%. Teniamo presente che quasi tutti i paesi, se crescessero intorno al 2-2,5% per 10 anni, sistemano tutto, cioè non c'è più bisogno di fare manovre sul debito, il debito si sistema da solo. Quindi ha questa, diciamo, solidità di fondo che si è acquistata con anni di austerità eccetera, ma sembra priva di una politica, di una direzione. C'è questo vuoto di Bruxelles, che è una cosa che alle volte è sconcertante. Bruxelles parla solo su piccole questioni tecniche, dove allora diventano cattivissimi, ragionieristiche, senza offese proprio, per i ragionieri. Il ragioniere sostituisce il politico, e non va bene questo. Per quanto riguarda l'Italia, sì, c'è poi un'altra considerazione da fare. Cioè, qui c'è qualcosa che non quadra perfettamente nei dati che riceviamo. Perché se guardiamo ai dati piccoli, cioè ai dati di settore, eccetera, troviamo un forte allargamento dei segnali positivi. Le auto si vendono, la gente va di più in vacanza, la Concommercio dice che la stagione natalizia è andata bene, e quello è già molto importante. E poi se andiamo a vedere invece il dato complessivo è molto basso, comunque è meno di quanto normalmente ci saremmo aspettati, quindi abbiamo le previsioni del Fondo Monetario 0,7, eccetera. Quindi o il peso dell'arresto dell'edilizia è più forte del previsto, perché allora il dato negativo dell'edilizia potrebbe tirar giù tutto il resto, oppure c'è qualche altra cosa che non sappiamo. Noi ipotizziamo che le vendite su internet possano essere più forti di quanto le statistiche registrano. Ormai in molti settori dei consumi una fetta di popolazione importante, diciamo tra il 10 e il 25%, usa internet per gli acquisti. E questi io non so bene se a livello di istituti statistici di tutta Europa, perché poi sono unificate le procedure, tengono ben conto. E quindi mi trovo con questo interrogativo di fondo che mi fa pensare che l'economia italiana abbia in questo momento una vitalità un po' superiore, non tanto a quello che la statistica ci dice. Speriamo che non arrivi la doccia fredda dall'America. Sulla fronte export. Sul fronte export, che è la cosa, io sono d'accordo con lei, ma non è che si deve essere d'accordo, lo dicono i dati statistici, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, l'unica voce positiva era sempre l'export, mentre i consumi franavano o frenavano. Ultimo elemento invece, da parte di cauto ottimismo, voi citate la Cina da una parte e l'industria 4.0 dall'altra, come elementi di ottimismo in uno scenario comunque complicato, prego. Lo scenario è sicuramente complicato. La Cina continua a crescere secondo tutte le previsioni tra il 6 e il 7%, che è qualcosa che noi sogniamo, pensi che l'abbiamo toccato soltanto 2 anni, e questi sono al livello più basso, adesso sono al 6 o 7 da circa 15 anni, quindi questo dà l'idea anche di come sono andati avanti. E non solo, ma sembra avere una particolare propensione per certe gamme di prodotti italiani, penso soprattutto all'agroalimentare, certo, dove i primi bisogni di una nazione che diventa ricca, o comunque non sono ricchi ma escono dalla povertà, sono i bisogni alimentari, mangiare meglio, no? E quindi noi su quello abbiamo molte cose da offrire con un ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi su quello siamo a posto. Poi abbiamo sempre su questa linea, e non solo, anche tutta l'Africa, noi dedichiamo parecchio spazio all'Africa, dove non siamo molto presenti, ma abbiamo le tecnologie giuste per interfacciarci con lo sforzo africano di avere una crescita buona e costante. E come si inserisce in questo percorso, per concludere, l'industria 4.0, che alcuni dicono ma insomma è una cosa aleatoria? No, l'industria 4.0 vuol dire fare un salto al modello di impresa. Ha degli aspetti ambivalenti. Da un lato è un salto enorme, in quanto, per dirla così, le macchine diventano intelligenti. Quindi, per esempio, una macchina che è in avaria segnala a chi l'ha costruito che è in avaria, che l'avaria è in quel punto lì, e quello manda direttamente a qualcuno a riparare. Dall'altra parte si mangiano un sacco di posti di lavoro, soprattutto di posti di lavoro di qualificazione media, medio-alta, cioè gli specialisti di mestieri operai, i saldatori, i tranciatori, eccetera, tutte quelle cose lì, tutto viene fatto dal computer, questi dove li mettiamo? E la risposta è bisogna crescere molto in questo settore, anche solo per compensare le perdite di lavoro che si possono creare. Peraltro è probabilmente inevitabile fare così, perché faranno così anche gli altri, se noi rimaniamo indietro, certo, perdiamo il mercato. Perdi tutti i posti di lavoro. Grazie intanto a Mario De Aglio, appunto ho pubblicato Globalizzazione addio, col punto di domanda, il 21esimo rapporto sull'economia globale e l'Italia, appunto curato dal professor De Aglio, con tantissimi altri contributi. Andiamo adesso sulla borsa e poi sul caso di borsa che oggi si chiama Generali. Tralasciamo il caso di borsa però nel commentare la giornata, perché appunto Generali, che significa Generali Assicurazione più 4%, Banca Generali più 6,11% e Intesa San Paolo, che la speculazione vuole coinvolta nell'operazione, meno 2,92%. Per quello che riguarda gli altri titoli, Fiat Chrysler più 1,60%, Unipol pure, Mediobanca più 1,50%, Ferragamo più 1,1, Enel staccava dividendo, anticipo di dividendo, perde 1,35%, debole Eni meno 1,5 e Saipem meno 1,20, poi la pattuglia, eccezione di Leonardo che perde il 2,92, delle banche, Banco BPM meno 2,80 come Unicredit, Banca Mediolanum meno 2,60, Biperbanca meno 2,30, cede oggi anche Italgas il 2,80%, Fineco 2,30, Luxottica il 2,15%. Ciao Condi, Nero di Colli, Sole 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Al di là del caso di borsa, io partirei da Leonardo da un lato e dall'altro sulla debolezza complessiva delle banche. Sì, diciamo che sostanzialmente a trascinare il ribasso Milano è stato sì l'apertura negativa di Wall Street, ma comunque tutto il comparto bancario è tutto negativo, guidato anche da Intesa San Paolo, banche che erano cresciute abbastanza nei giorni scorsi, oggi un po' di vendite, Unicredit perde il 2,8%, Banca Mediolanum il 2,6%, Banco BPM nonostante abbia ceduto venerdì delle sofferenze per oltre 400 milioni perde il 2,8%, c'è un titolo che non c'entra con le banche, quello che citavi tu e Leonardo, qui il tema sono i risultati 2016 in calo per ATR, cioè la joint venture che Leonardo ha sugli Airbus, con Airbus, scusate, che è specializzata negli aerei da trasporto regionale. Allora qui il tema è che il fatturato è in calo, è sceso dai 2 miliardi del 2015 agli 1,8 miliardi dell'anno scorso, del 2016, chiaramente a livello di MOL, di margini, ATR è una componente importante per il bilancio di Leonardo e quindi il mercato ha interpretato negativamente questi numeri nell'ottica poi di quella che sarà la pubblicazione del bilancio 2016 di Leonardo. Allora, altri titoli migliori e peggiori in assoluto: Zucchi più 25%, Gequity più 23,70%, Sintesi più 20,30%, Risanamento più 17%, fronte opposto Invest meno 10,60%, Vita meno 4,5, SNAI meno 4,40, Dime Group meno 4,40. Grazie a Ciocondi, andiamo sul traffico e poi parliamo delle generali. Focus Economia. Allora, riepilogo delle puntate precedenti. Anche in seguito alla vicenda Vivendi Mediaset, si è iniziato a ragionare su dove arriveranno i francesi. Allora, non ha nessun senso dire che, siccome sono francesi, il numero uno di Unicredit, il numero uno delle generali, a questo punto dovresti avere per forza un asse con Bolloré. Sono francesi di passaporto. Ma il punto è un altro, che fin dall'inizio di quell'operazione c'è chi ha detto attenzione che questa operazione potrebbe portare a un rimescolamento delle carte anche in Mediobanca, dove Bolloré è il secondo azionista, Unicredit guidata dal francese Mustier il primo azionista, e Mediobanca è il primo azionista delle generali, nel senso che ha il 13,5% di quello che è il terzo gruppo assicurativo europeo. Il secondo gruppo assicurativo si chiama AXA e infatti le ipotesi di un'operazione francese ipotizzavano che nella partita delle generali potesse entrare il colosso francese delle assicurazioni AXA, da cui viene Philippe Donet, e quindi il numero uno delle generali, ma sto parlando solo del curriculum, non sto dicendo che questo voglia dire nulla. E il primo gruppo però a livello europeo si chiama Allianz. Perché cito Allianz? Perché in un articolo pubblicato dalla Stampa domenica, cioè ieri, la Stampa di Torino, viene ipotizzato in maniera molto chiara un accordo, l'ipotesi che possa essere un accordo tra Intesa San Paolo e Allianz per, diciamo, aumentare la quota per entrare in maniera pesante nelle generali e diventare un azionista, diciamo così, di riferimento, rimescolando tutto l'assetto del Leone Triestino. Il mercato quantomeno ha creduto alla speculazione, perché generali, alle ipotesi speculative, generali ha guadagnato il 3,94%, Intesa ha perso il 2,92%. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Intanto, l'ipotesi, che scenario prevederebbe? Ma ci sono diversi schemi, nel senso che l'ipotesi, diciamo, di base è che prevederebbe un intervento di Intesa sul capitale di generali per, come dire, rinforzare lo zoccolo duro italiano, per cui difendiamo le assicurazioni dall'ipotetica offensiva transalpina e al tempo stesso costruiamo qualcosa che però industrialmente abbia senso, perché Intesa comunque è a sua volta quotata e quindi non agisce per spirito di patria, ma perché evidentemente ha dell'interesse in termini di ritorno. Però sullo sfondo, adesso uno potrebbe chiedersi, un marziano che fosse appena arrivato, ma perché si muovono Intesa e eventualmente Allianz, perché dovrebbero muoversi Intesa e Allianz? Allora, da sempre le generali sono state un oggetto del desiderio di tutti, insomma, perché lì si snoda il capitalismo italiano, la partecipazione di Mediobanca e quant'altro. Però a nessuno sfugge che queste ipotesi, queste indiscrezioni arrivino a poche settimane dallo scenario che illustravo prima, cioè alcuni l'hanno chiamata la calata dei francesi, faccio notare che sono già calati, sono già qui, però l'ipotesi che l'intera vicenda Bolloré non si debba limitare solo a Mediaset, ed è lì che si sta ragionando per quello che negli scacchi si chiamerebbe arrocco, cioè evitare muoversi prima che si muovano altri. Sì, è così, nel senso che sicuramente questa partita ha una componente politica evidente, tanto è vero che, insomma, da quello che risulta la politica ha avuto un ruolo. Adesso non ricordo da parte di chi c'è stata la denuncia qualche settimana fa, qualche giorno fa, di questo ipotetico disegno francese sui generali. Il problema, come dicevi tu, è capire quale interesse potrebbe oggi vedere allineati Allianz e Intesa, nel senso che entrambi sicuramente hanno l'interesse a stoppare, a fermare l'avanzata di AXA in Italia. Questo sì, però poi dovrebbero anche trovare un ritorno da un possibile investimento, perché Intesa comunque prima di investire 2, 3, qualche miliardo, in un momento in cui comunque la redditività per le banche, compresa Intesa, è veramente una scommessa, sicuramente ci devono essere dei ritorni certi. Sì, va detto che Intesa è dei gruppi bancari italiani quello messo meglio adesso di quella dimensione, dei primi gruppi, nel senso che non ha dovuto fare l'aumento di capitale che deve fare UniCredit, ha gestito in maniera diversa vari percorsi, per cui è il gruppo italiano che forse ha maggior margine, maggior liquidità. Sì, però non dimentichiamo che noi siamo alla fine di un piano pensato da Carlo Messina, premiato dal mercato, che si basava sulla cessione di tutte le partecipazioni non core, di cui, se ricordo bene, Generali fu una delle prime, c'era ancora una partecipazione residua, a essere venduta. Tu quindi dici perché adesso sì? Adesso sì, solo se ha una logica industriale. Questo secondo me è il tema su cui le indiscrezioni ancora, come si suol dire, non quagliano. Mi chiedono giustamente gli ascoltatori, ma perché le generali, oltre al loro peso e quindi essere il terzo gruppo assicurativo europeo, il primo gruppo assicurativo italiano, con quasi 23 miliardi di capitalizzazione, perché sono uno snodo strategico nel capitalismo, nella finanza, più che nel capitalismo in senso stretto, italiana? Ma per varie ragioni. Le assicurazioni sono un settore come quello bancario, per certi aspetti anche di più, perché più anticiclico, più stabile, strategico per come dire, chi ha un piede in quell'ambiente, in quella società, è un piede come dire, stabile, che rischia di meno rispetto ad altri. Generali sono un nome e anche al momento un crocevia dei principali azionisti. Tu citavi Mediobanca, che però indirettamente vuol dire UniCredit, non dimentichiamo che UniCredit è il primo azionista di Mediobanca, quindi evidentemente l'interesse pur indiretto c'è. E vuol dire anche Bolloré, che è il secondo azionista. Anche Bolloré, che è il secondo azionista. In generali ci sono alcuni tra i principali, come dire, protagonisti del nostro mondo finanziario, Caltagirone, Del Vecchio, quindi come dire, gli imprenditori più liquidi al momento sulla piazza, e quindi tutto questo fa sì che oggi Generali sia uno dei salotti, non più salotti come dire, non in quanto tali, come i tempi tali, di cuccia, diciamo, però, ma, insomma, degli snodi. Tra l'altro uno di quelli è di fatto un po' più forse contendibili, nel senso che Intesa ha uno zoccolo duro molto più solido, UniCredit ormai viaggia su cifre non alla portata di tutti, e quindi rimane Generali. Certo, insomma, se dobbiamo pensare a operazioni di risico assicurativo, poi i francesi sono innamorati del termine banca assurance, non dimentichiamoci, in cui loro vedono da sempre una convergenza tra mondo bancario e mondo assicurativo, meno innamorati forse i tedeschi, però se, insomma, possiamo dire che il comune denominatore delle indiscrezioni, del retroscena circolati è di un'operazione antifrancese, questo lo possiamo dire, ammesso che esista questa operazione, perché Allianz poco fa ha detto, il portavoce di Allianz ha detto: ho letto con grande interesse, sono rimasto un po' sorpreso, non vogliamo partecipare a speculazioni di mercato e non ho nulla da dire a riguardo. Devo dire che il presidente di Intesa San Paolo, Grosspietro, ha detto invece no comment, sappiamo che c'è. Sì. Ecco, nella gerarchia delle smentite, il no comment per Intesa è parecchio, nel senso che loro smentiscono tutto, un no comment, insomma. No, lo spiego agli ascoltatori, cioè, un conto è dire smentiamo tutte le indiscrezioni, un conto è dire non commento, è una cosa un po' diversa in italiano, cioè, non so, è vero che ho fatto questo, un conto è dire no, lo smentisco, un conto è dire non voglio commentare. Non voglio commentare neanche Allianz, che ha una posizione un pochino più netta, dicendo appunto siamo sorpresi, non partecipiamo a speculazioni di mercato. Allora, anche qui, che uno non voglia partecipare a speculazioni di mercato è una cosa, che non voglia partecipare a comprarsi a generali è un'altra, a casa mia. Sì, tra l'altro Allianz, non dimentichiamo, noi siamo in un, Allianz ha una presenza importante in Unicredit, si è ridotta negli anni, ma comunque ha un piede in Unicredit, Unicredit alla vigilia di un aumento di capitale da 13 miliardi, sicuramente è l'Italia nel radar, al di là delle dichiarazioni ufficiali. E su questo appunto, poi tra l'altro, Marco, per concludere, invece il mercato comunque ci ha creduto, perché adesso diciamo un'ulteriore cosa, io ho difficoltà a pensare che oggi abbiano comprato generali e venduto Intesa i piccoli azionisti, i cassettisti e i risparmiatori, anche perché muovere del 4% un titolo come le generali non è facilissimo, vista la capitalizzazione, non è il Monte dei Paschi, non è, esatto, non è il Monte dei Paschi, non sono titoli più sottili che bastano qualche decina di miliardi di pezzi per muoverlo. Qua insomma, stiamo parlando delle generali, 23 miliardi quasi di capitalizzazione. Allora, tutto bene, ma il fatto che il mercato reagisca in questo modo forse vuol dire che un po' di ciccia c'è, o quantomeno sull'ipotesi, perché sennò chi va a comprare adesso generali e a vendere Intesa sul nulla, sapendo che è difficile anche muovere i titoli? Un po' di ciccia forse c'è, e abbastanza realistico visto proprio questa fase, appunto dicevamo di generale, di questo riassetto Intesa, e deve prendere decisioni a breve sul suo destino, un nuovo piano industriale, sì, no, deve dire qualcosa, quindi sì, un po' di è verosimile, questo basta a muovere sicuramente cifre grosse. E tra l'altro devo dire che il generale non ha commentato, anche qui interessante, non ha smentito, non ha commentato le indiscrezioni di stampa dell'ipotesi di un consiglio di amministrazione a breve, e qualcuno dice già in settimana, per sostituire Alberto Minali, che non è un peso da poco, è il CFO, il responsabile finanziario e direttore generale della società. Ripeto, generale non ha voluto commentare le indiscrezioni di stampa, e anche qui siamo al no comment, non alla smentita. Poi magari arriverà anche la smentita, però uno prende atto che in questo momento non c'è una smentita, c'è un no comment, che a casa mia è una cosa molto diversa. Grazie a Marco Ferrando, andiamo su GR24 e poi chiaramente parliamo di Boeri qui al Sole 24 Ore, presidente dell'INPS, dura critica alla manovra come fattore anche di disuguaglianza da un lato, e dall'altro invece chiudiamo con l'iniziativa di Bruxelles sugli agricoltori delle zone colpite dalle nevicate, dal terremoto più recente, ma anche in questo caso oggi dal maltempo che è sceso nel nostro sud Italia. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Diciotto e sette minuti, chiusa la pagina per ora, almeno sulle generali, sul ruolo di Intesa San Paolo di Allianz. Andiamo a quanto è avvenuto oggi qui a Milano, nella sede del Sole 24 Ore, dove si è tenuta l'edizione 2017 di Tutto Pensioni, perché al centro dei lavori c'era l'opportunità dei lavoratori e delle imprese per le modifiche introdotte con la legge di bilancio 2017, quindi garantire maggiore flessibilità al sistema previdenziale. Adesso vi arriveremo. L'APE, famoso nella sua versione aziendale, che dà al datore di lavoro la possibilità di versare contributi aggiuntivi in favore del dipendente che vuole accedere prima alla pensione, andando poi così a compensare, l'abbiamo raccontato molte volte, in tutto in parte il costo dell'operazione che grava sul lavoratore. Però, diciamo, a far notizia è stata soprattutto la dichiarazione e l'intervento del presidente dell'INPS Boeri, che ha puntato l'indice sull'estensione della quattordicesima, ha dato un giudizio invece sostanzialmente positivo sull'APE, e ha detto sulla quattordicesima che può venire a premiare delle persone che si trovano in famiglie dove ci sono altre persone che hanno pensioni elevate o patrimoni ingenti, cioè va a avvantaggiare chi già sta bene, posso dirla male, ma è detta così. E poi ha detto: è una manovra che fa aumentare il debito e implicito, e ogni manovra che lo fa scarica oneri sulle generazioni future. L'intervento sulla quattordicesima può venire a premiare delle persone che si trovano magari in famiglia in cui ci sono altre persone che hanno delle pensioni elevate, redditi elevati, patrimoni ingenti, e in Italia abbiamo un problema molto serio di povertà, come ho avuto modo anche di sottolineare nell'audizione al Senato la scorsa settimana. In Italia, se guardiamo i dati sui consumi, la povertà è raddoppiata durante gli anni della crisi. Continuiamo a non intervenire in modo sistematico per il contrasto alla povertà, mentre la povertà tra l'altro ha un profilo generazionale molto marcato, perché è aumentata tutto al di sotto dei 65 anni di età. Con questo intervento, quello sulla quattordicesima, si interviene su persone che hanno più di 65 anni, si dà sostegno a delle persone che non necessariamente sono così in condizioni di bisogno. Come si può rimediare in questi punti critici secondo lei? Noi vogliamo assolutamente fare in modo che ci sia la maggiore consapevolezza, e quindi rimediare. La cosa importante è che tutti siano consapevoli. In questo senso noi siamo impegnati a porre al centro della discussione in Italia il concetto di debito implicito, cioè sapere qual è l'impatto che queste misure hanno sui costi che dovranno essere fronteggiati dalle generazioni future. Questa manovra aumenterà il debito implicito. Il debito implicito è l'insieme degli impegni presi dallo Stato nei confronti degli attuali contribuenti, degli attuali pensionati e anche dei contribuenti futuri. Quindi se si dice che il debito implicito è qualcosa che non ha valore, si sta implicitamente dicendo ancora si taglieranno le pensioni. La risposta è arrivata sempre a Tutto Pensioni qui a Sole 24 Ore del sostanzialmente colui che fa da consigliere economico all'unità di coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio, si chiama Stefano Patriarca, ha detto: no, nella manovra ci sono forti elementi di equità sociale, l'APE, l'anticipo pensionistico, è un'operazione selettiva a favore di categorie bisognose. Non c'è dubbio che dentro i 300 miliardi annui di spesa pensionistica italiana e nelle sue dinamiche attuali e future ci sia un pezzo di ineguaglianza rilevante. C'è anche tanta equità sociale, perché non ci dimentichiamo che in questo paese le pensioni non sono solamente, d'accordo, quelle che creano ineguaglianze, ma anche quelle che hanno consentito, d'accordo, a generazioni che venivano fuori dal dopoguerra in condizioni difficili, d'accordo, di avere un minimo di sussistenza. E però le diseguaglianze ci sono. Ovviamente la diseguaglianza del non superamento del sistema retributivo completamente nel 95, d'accordo, questa lunga transizione, lunghissima transizione, ha probabilmente, a quei tempi si è ragionato più, come diceva adesso il Presidente, cioè si è guardato che si riduceva il debito implicito in modo molto lontano, ecco, però lontanissimo decisamente. Sono solo parzialmente d'accordo sulle cose che diceva prima il Presidente. Io penso che invece ci siano forti elementi di equità dentro questa manovra. Allora, Maria Chiara De Cesari, che per il Sole 24 Ore ha, diciamo, curato assieme ad altri colleghi l'edizione Tutto Pensioni 2017, buonasera innanzitutto. Buonasera. Insomma, Boeri molto duro, era duro anche quando c'era Renzi, che poi l'aveva nominato. Adesso immagino che senza Renzi, con un governo tra virgolette, anche senza virgolette, più di transizione, perché al massimo durerà fino all'inizio del 2018, e sicuramente dalla minor connotazione politico barra elettorale, forse a gioco ancora più facile. Tra l'altro sulla quattordicesima io ricordo anche che c'è un'Europa che ci ha chiesto una correzione dei conti di 3 miliardi e 400 milioni, ma il ragionamento di Boeri è sul, più che sui conti, oltre che sul debito e conti pubblici, sull'iniquità di alcune misure, se ho ben capito. Esattamente, anche perché come dire, mi sembra che nel triennio la manovra sulle pensioni valga circa 7 miliardi, insomma, quindi questa è un po' l'entità di cui stiamo parlando, mentre invece le riforme correttive di Boeri mobilitavano assai decine e decine di miliardi, anche se diciamo verso il 2050 o il 2046, come dire, soprattutto laddove c'era una forte un forte risparmio attuariale, un forte ridimensionamento attuariale degli assegni, diciamo che nel 2000, verso il 2045-2046 si sarebbe potuto trovare diciamo un segno di risparmio per la finanza pubblica. Il problema è arrivare al 2046 laddove c'è un segno, un'inversione di tendenza. Ecco, io direi che come dire, Boeri spara sulla quattordicesima. È vero che i pensionati attuali hanno avuto un dividendo molto maggiore rispetto a quello che sarebbe loro spettato secondo un rigoroso calcolo attuariale e contributivo, ma è anche vero che la quattordicesima spetta di solito a pensionati che insomma hanno assegni abbastanza bassi. Lì si possono trovare anche delle come dire, delle persone che al di là del che beneficiano della quattordicesima, dell'integrazione anche oltre i propri meriti economici e patrimoniali, è vero, però si spara un po' con il cannone ad un moscerino, insomma. Sì, ma forse bisognerebbe chiedere, se uno vuole seguire il ragionamento di Boeri, va bene, allora facciamo in modo che questa quattordicesima abbia dei vincoli ancora più stringenti sul fronte dell'assegno che viene erogato. Per non andare, certo, a vantaggiare. Certo, Boeri stesso insomma faceva riferimento al fatto che appunto ci sono modi per legare le prestazioni all'ISEE, che è la verifica delle condizioni economiche e patrimoniali dell'individuo. Diciamo che da un punto di vista pensionistico questo non è mai stato fatto. Da quando è nata la quattordicesima la strada scelta è stata tout court quella di come dire, dare un bonus alle pensioni più basse. Uh-huh. E probabilmente insomma andare a costruire un meccanismo selettivo per patrimonio e per condizione economica non sarebbe stato probabilmente semplice. Ecco, Maria Carla, mi sembra che invece vi fosse maggiore consenso, o meglio consenso sull'APE. Anche Boeri sicuramente non c'è, l'ha criticato, ha detto che arriveranno 150.000 buste arancioni integrate, sì, con le informazioni sulle innovazioni pensionistiche dirette soprattutto alla platea interessata all'APE sociale, all'anticipo pensionistico. Certo, direi che appunto Boeri ha in qualche modo dato il via libera all'APE, soprattutto all'APE sociale, come dicevi tu, perché questa andrà diciamo ad essere destinata soprattutto a persone in difficoltà, disoccupati prima di tutto, ma anche persone che svolgono lavori gravosi, così come verranno come sono stati definiti dalla legge, diciamo in particolare gli edili, per esempio, e come verranno meglio precisati dal decreto attuativo. Ecco, diciamo che l'APE sociale diventa un nuovo ammortizzatore che si affianca a quelli messi in campo dalla riforma Fornero in poi, quindi alla cassa integrazione e poi alla NASPI, che è l'assegno di disoccupazione che è stato molto ridotto, e poi ci sarà l'APE sociale per coloro che, arrivati in prossimità della pensione di vecchiaia, cioè almeno a 63 anni e 20 anni di contributi in generale, potranno, diciamo, si trovano in condizioni tali che non trovano un altro lavoro e quindi potranno accedere ai benefici, diciamo, dell'APE sociale. Massimo, che è una prestazione sociale, non è una pensione, massimo 1.500 euro mensili non rivalutabili. Aggiungo che per l'APE sociale occorrono un po' più di contributi, cioè occorrono circa 30 anni di contributi, quindi insomma è una prestazione che richiede requisiti abbastanza elevati. Abbastanza elevati. C'è da chiedersi, ecco, come alla fine di questi due anni, 2017-2018, si intenderà proseguire e diciamo quali saranno le risorse che dovranno essere messe in campo a carico, certo, dell'assistenza, perché su questo Patriarca è stato molto esplicito: non è una prestazione previdenziale, è una prestazione assistenziale. È vero, è assistenziale pura, cioè non ragioniamo in chiave previdenziale, quindi con i contributi versati. Quant'altro. Certo, perché la pensione rimane congelata al momento in cui viene calcolata l'APE sociale, viene calcolato l'importo dell'APE sociale. Grazie anche Maria Chiara De Cesare. Andiamo sul traffico e poi parliamo di un aspetto. Oggi sui giornali trovate alcune stime, 10 miliardi almeno il costo di quanto è avvenuto, ahimè, al di là della tragedia umana, e di quanto è avvenuto nel centro Italia, soprattutto in Abruzzo, chiaramente Umbria, Marche, ma c'è un costo che stanno subendo anche in particolar modo gli agricoltori di quelle regioni e delle regioni del nostro Mezzogiorno, dopo il traffico. Focus Economia. Allora, chiaramente, soprattutto c'è la tragedia umana. Adesso anche i nostri GR24 vi stanno raccontando e vi racconteranno anche di quello che sta facendo la procura per quello che riguarda l'hotel di Rigopiano, le inchieste, le ipotesi. Io invito tutti a essere molto cauti, questo è un popolo in cui tutti sanno sempre tutto, sono tutti allenatori della nazionale di calcio, tutti i soccorritori sulla poltrona. Vediamo che cosa emergerà dall'inchiesta sugli allarmi ignorati, mandati in tempo corretto. La preoccupazione dei sindaci di intere regioni è altissima in questo momento, anche perché purtroppo, come sapete, non stanno arrivando dagli esperti rassicurazioni. Già abbiamo letto venerdì dell'Istituto Nazionale di Geofisica che diceva non sappiamo, anzi potrebbe essere con probabilità non la fine di quanto accaduto ad agosto e ottobre, ma l'inizio di una nuova fase dal punto di vista sismico. Quindi io invito tutti a non far polemica in questi casi, vedremo cosa sarà accertato, fermo restando che siamo di fronte a un evento assolutamente eccezionale, cioè terremoto con le nevicate più forti da 56. Detto questo, c'è un problema nel problema e mi riferisco ai danni per il settore agricolo. Oltre 1 miliardo vengono stimati da alcune associazioni di categoria. Nelle aree colpite dal terremoto Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo risultano sepolte dalla neve 3.000 aziende agricole e stalle, alcune si sono liberate nel frattempo, ma il numero iniziale era di questo. Lo stress ha causato il crollo ovviamente del 50% della produzione di latte nelle mucche, nelle pecore. Faccio notare che queste regioni colpite si basavano principalmente su due voci, oltre che su un po' di manifattura anche importante, e ci mancherebbe, agricoltura anche di qualità e turismo. Ora voi capite che le due cose sono letteralmente in ginocchio. Dicevo, aumenti già sui prezzi, ecco. Poi c'è il fronte del sud, perché nel nostro Mezzogiorno la situazione è come stiamo raccontando questa mattina, drammatica, più per la pioggia in questo caso, per fortuna, che non per altro. Vi faccio ascoltare che cosa ha detto poco fa il ministro Martina dopo un incontro con il commissario dell'Unione Europea Phil Hogan. L'Unione Europea ha aumentato il sostegno agli agricoltori italiani colpiti appunto nelle zone che citavo da terremoto e nevicati. Martina. Stiamo parlando di 118 milioni di euro che tra piani di sviluppo rurale e aiuti diretti al mancato reddito, in particolare degli allevatori, potranno essere pagati a partire dalle prossime giornate, a partire dalle prossime settimane. Questo è il primo passo di un lavoro che dobbiamo fare, ancora più profondo, che ha molto a che vedere con la ricostruzione anche agricola di quei territori. Abbiamo condiviso col commissario Hogan la necessità di lavorare anche con il resto della Commissione, perché una parte del budget e delle risorse che la Commissione potrà attivare sulla calamità sia dedicata anche alla ricostruzione agricola. Io penso che oggi abbiamo dato un bel segnale concreto di attenzione a tante imprese, a tante famiglie, a tanti allevatori, a tanti agricoltori delle terre colpite che hanno assoluto bisogno di avere le istituzioni a fianco. E siamo in collegamento con il presidente di Confagricoltura, Mario Guidi. Buonasera, presidente. Buonasera a voi. Allora, ripeto, c'è la tragedia in primo luogo umana nelle regioni che ricordavo, poi ci sono i danni invece che si stanno verificando in me anche al sud. Avete una stima più puntuale, più aggiornata della nostra e si ritrova nella descrizione delle criticità? Sì, assolutamente. Le stime sono come una specie di calcolatore che ogni minuto aumenta la sua dimensione. Non riusciamo ancora a dare le stime precise perché i danni sono ancora in corso. Nelle zone terremotate, come avete già detto, stiamo parlando di danni incalcolabili, ma anche nel resto del sud del paese, con un'Italia che dal punto di vista meteo sembra essersi rovesciata, da Sicilia, Calabria, alla Puglia stessa, i danni sono di parecchie centinaia di milioni. Per piogge battenti, a partire dalla Sicilia nella zona del Ragusano, ai 230 mm che sono venuti in Calabria, nella piana di Gioia Tauro, a Catanzaro in particolare 100 mm nel giro di pochi minuti quasi, e poi la Puglia, dove la neve ha schiacciato i tendoni delle viti che producono uva da tavola e ha distrutto migliaia di ettari di orticole. E tornando su poi alla zona del terremoto, in cui ovviamente al disagio di tutto quello che è stato abbattuto c'è un avvilimento complessivo per una situazione climatica che è veramente assurda ed è qualcosa che fiacca anche la capacità delle persone. Quello che ha detto il Ministro è una buona notizia, sicuramente è un segnale tangibile. Diciamo che mi permetto di dire che non dovremmo aver bisogno di chiedere un permesso all'Europa per poter intervenire dal punto di vista della solidarietà. Le regole ci sono per tutti. Questa volta per fortuna si è agito abbastanza velocemente. Poi vedremo che cosa il tempo ci riserva. Ecco, da questo punto di vista poi questi, se ho ben capito quanto ha deciso Bruxelles, permette anche un anticipo della totalità dei pagamenti diretti di alcuni finanziamenti dello sviluppo rurale. Voi come associazione di categoria che cosa intendete fare nei confronti dei vostri associati però? Beh, noi stiamo intervenendo procurando foraggio, cercando di procurare anche delle strutture che possono essere montate, ma è tutto reso difficilissimo, enormemente difficile da questa situazione, dalla neve incredibile che è venuta, che rende quasi impossibile arrivare alle zone dove c'è bisogno di portare maggiore solidarietà. E poi cerchiamo di sveltire al più possibile tutte le pratiche burocratiche per vedere di liberare le risorse economiche che servono sicuramente. Ma vede, l'aspetto economico nell'emergenza serve quasi gran poco, serve piuttosto riuscire a portare foraggio, mangimi a questi animali e cercare di in un qualche modo portarli anche via. Alcune nostre realtà si sono offerte di ospitare gli animali per poterli tirare via da questa situazione, perché gli animali stanno veramente morendo, oltre che ovviamente, come si è detto, le persone. Ecco, voi immaginate anche una campagna, adesso non so se possa essere già anticipata, ma una campagna anche a sostegno, perché forse anche se ognuno di noi, lo dico in maniera molto banale, non voglio lanciare nulla, ma insomma se ognuno di noi si, come già era avvenuto in alcuni casi per Amatrice, come era avvenuto, ricordo bene, per l'Abruzzo, in cui si disse quel Natale compriamo e cerchiamo di regalare sempre prodotti dell'agricoltura abruzzese, perché insomma il terremoto dell'Aquila ce lo ricordiamo bene. Avete in mente anche campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'acquisto? Queste sono già state fatte e sono andate tutte molto a buon fine, tant'è che i prodotti abruzzesi in particolare, ma anche quelli di Amatrice e delle altre realtà, sono stati proprio durante le feste di Natale esauriti. Qui si tratta di ripartire con una produzione e, se mi permetto di dire, di ripartire col piede giusto. Ora, parlare oggi di strategia di ricostruzione è velleitario, perché la prima attività è l'emergenza. Io credo che la solidarietà degli italiani si veda tutti i giorni e noi lo stiamo vedendo anche con la nostra Onlus, che sta raccogliendo i fondi per poter avere una capacità di spesa più facile, più immediata. Ecco, insomma, purtroppo la burocrazia e il timore, diciamo così, che si insinuino degli elementi non legali all'interno di queste disgrazie c'è, e quindi la possibilità che le organizzazioni intervengono consente di una facilità di spesa che magari altri non possono avere. Allora, in bocca al lupo veramente, massima solidarietà anche e vicinanza per quello che è possibile a tutti gli agricoltori, a partire dalle quattro regioni che citavo, per poi anche passare al nostro mezzogiorno. Grazie al presidente Confagricoltura Mario Guidi. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.